24, la storia. Sono stato 14 anni governatore, un anno presidente del Consiglio, sono quasi 3 anni che faccio il ministro del Tesoro. Ho avuto la soddisfazione di vedere realizzato quello che era un sogno, ripeto, politico, oltre più che economico, con l'euro. Cosa posso chiedere di più? Ho avuto già abbastanza. Mi contento. Ricordo, ora lo posso raccontare, insomma, una mattina a casa mia vennero Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini, che allora erano esponenti del Polo della Libertà. Un piccolo gossip a scoppio ritardato, una indiscrezione che possiamo dare oggi con tutta tranquillità. E con loro discutemmo e io avanzai la proposta di Carlo Azeglio Ciampi. Il nome di Ciampi apparve subito con un nome idoneo, un nome sul quale per davvero non si poteva obiettare alcunché. Successivamente ci incontrammo ad Arcore. Io ricordo di aver avuto una telefonata di Silvio Berlusconi a sera tarda. Berlusconi mi disse: la sinistra mi propone Ciampi. In Berlusconi prevalse la preoccupazione di non spaccare il polo di centrodestra, perché è chiaro che io e Fini eravamo propensi a votare per Carlo Azeglio Ciampi. Ciampi. Ciampi. Sarò fedele ai valori di libertà, di giustizia, di democrazia che sono il fondamento della Costituzione repubblicana. Viva la Repubblica Italiana, viva l'Unione Europea, viva l'Italia. A 95 anni si è spento a Roma il presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Livornese di nascita, europeista convinto, difensore a spada tratta dell'ingresso dell'Italia nell'euro. Il 13 maggio del 99 diventa il 10° presidente della Repubblica Italiana. Le Camere riunite lo eleggono alla prima votazione quasi all'unanimità. Prima di lui era successo solo a De Nicola e a Cossiga. Ma Ciampi, a differenza loro, non è un politico, è piuttosto un uomo delle istituzioni. Governatore di Banca Italia, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Economia e poi appunto Presidente della Repubblica, sempre però con il destino di dover entrare in scena, di essere chiamato a questi ruoli in momenti di crisi, nei passaggi più difficili che il nostro Paese si è trovato ad affrontare, come nel marzo del 79 con l'incriminazione del Governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi e l'arresto del suo vice Mario Sarcinelli. 24 marzo 1979, un giorno drammatico per la Banca d'Italia, di cui Ciampi è in quel momento direttore generale. Un giorno orribile, era un sabato, a una certa ora, è stata lì, 10:30, le 11, entra pallido, come un morto, Mario Sarcinelli, mi dice: Carlo, ti lascio perché è venuto qua un colonnello dei carabinieri per arrestarmi. Lo abbracciai e uscì. E andò via con questo colonnello. Mi precipitai nello studio di Baffi, che lo trovai distrutto, perché lui aveva avuto un analogo provvedimento senza mandato di arresto in relazione all'età avanzata. 2 ore fa, Paolo Baffi, governatore della Banca d'Italia, è entrato a Palazzo di Giustizia per essere interrogato dai giudici Infelisi e Alibrandi. Baffi, lo ricordiamo, è accusato di interesse privato in atti d'ufficio e di favoreggiamento, stesse accuse per Mario Sarcinelli, vice direttore della Banca d'Italia, che è in carcere da sabato scorso. La battaglia contro Baffi con la prima di Sarcinelli è stata una delle più brutali nel mondo politico italiano. Cioè proprio si voleva espellere dalla banca le persone che con più forza e più integrità avevano difeso una certa etica. Appare chiaro fin da subito che Baffi e Sarcinelli sono in realtà vittime di un gioco ben più grande. Sarcinelli, in particolare, tra l'aprile e il settembre 1978, ha ordinato un'ispezione presso il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e mantiene una posizione nettamente contraria al salvataggio della banca privata italiana di Michele Sindona. Le accuse

Poi sono sorte polemiche, ci si è rimesso più o meno. Noi bruciammo per quella resistenza 60.000 miliardi di lire di riserve nel tentativo di difendere una lira che non si poteva più difendere. Il fatto che si tenti di vedere se il paese può resistere di fronte alla svalutazione è sempre necessario, è sempre un fatto obbligatorio, no? Vedere quanto serio è l'attacco. Capisco che uno può dire ma potevano uccidere 3 giorni prima, fatemi indovinare, vi farò ricco. L'Italia vive dunque una crisi gravissima. La risposta del governo Amato è una maxi manovra da 93.000 miliardi, pare al 5,6 del prodotto interno lordo. La più imponente correzione dei conti mai realizzata fino ad allora. Ma non c'è solo il dissesto dei conti pubblici. La svalutazione e l'uscita temporanea dell'Italia dal sistema monetario europeo a sconcassare il paese è anche l'inchiesta Mani Pulite. Dal febbraio del 92, con l'arresto di Mario Chiesa, è diventata ormai una valanga che sta travolgendo l'intero sistema dei partiti. Il 22 aprile, dopo il referendum sul sistema elettorale, Giuliano Amato si dimette da Presidente del Consiglio e una volta ancora qualcuno pensa a un uomo della statura di Carlo Azeglio Ciampi. Sabato 24 aprile 1993. A Roma, nella chiesa di San Saturnino, si svolgono i funerali di Guido Carli, l'ex governatore della Banca d'Italia. C'è il Presidente della Repubblica Scalfaro, che ha sospeso per quella mattina le consultazioni per risolvere la crisi di governo in corso. C'è il Presidente del Consiglio Giuliano Amato, ormai dimissionario. Ci sono Giulio Andreotti e Gianni Agnelli, Enrico Cuccia e gli uomini della Banca d'Italia, Lamberto Dini, Antonio Fazio, Tommaso Padoa Schioppa. È presente, insomma, tutta l'Italia della politica e della finanza. E naturalmente c'è l'uomo che da 14 anni occupa il posto di governatore, Carlo Azeglio Ciampi. La mattina dei funerali di Carli è già nell'aria quello che sta per accadere. Roma, domenica 25 aprile 1993. Racconto questa cosa come l'ho vissuta io. Chiamai il capo dello Stato e gli dissi, Oscar, ma perché non pensi a Ciampi? E lui mi rispose, Giuliano, è esattamente la cosa che ho pensato stamani. Anche io gli dissi, guarda, c'è il rischio che lui ti dica di no. Dico, io lo conosco abbastanza bene da riuscire a fargli dire di sì. Lunedì 26 aprile, 8 di mattina, a casa di Ciampi arriva una telefonata. Io telefonai a Ciampi e lui capì, come avevo capito io, subito il motivo della chiamata. Cioè, gli voleva affidare in casa. E Ciampi fu nettamente, non dico contrario, ma sconsigliò, mi pregò di dire al Presidente che non pensasse a lui perché non era un politico, non era opportuno, eccetera. E disse, senti, intanto vieni dal Presidente. Rifiutare un incarico non era un vezzo, non è, diciamo, un atteggiamento di chi vuole farsi pregare, ecco, tanto per dirlo in maniera chiara. No, è una convinzione che avere un luogo, una posizione di comando è una responsabilità gravissima, è un pericolo per sé e per la famiglia ed è qualcosa che prima di accettarlo bisogna pensarci molto bene. Alle 11, nella residenza privata del presidente Scalfaro, si incontrano 4 persone. Giuliano Amato svolse un intervento incisivo, breve, che si concludeva con l'affermazione che Ciampi non poteva sottrarsi al compito che gli si voleva affidare. A questo punto il presidente Ciampi chiese di poter avere a disposizione una pausa di riflessione. La mia filosofia è questa. Quando si profilano impegni difficili, importanti, se puoi farlo, evitali. Ma se non puoi evitarli, affrontali con pienezza di energie, con freddezza, con libertà di mente, con onestà di propositi. Pomeriggio ritorna Ciampi e con nostra grande positiva sorpresa

I partiti un po' si preoccupano di questo personaggio che è intervenuto improvvisamente, che non risponde a nessuno. Fu un momento breve in cui i segretari di partito le cose le apprendevano dai giornali. Per cui non è che prolungano la sua presidenza del Consiglio al di là dello stretto necessario. Giovedì 13 gennaio 1994. Carlo Azeglio Ciampi rassegna le dimissioni da presidente del Consiglio. Nuove elezioni decideranno i nuovi equilibri tra i principali partiti. Furono le elezioni che segnarono la fine della cosiddetta Prima Repubblica, perché furono le elezioni in cui nacque il movimento politico guidato da Silvio Berlusconi, scomparve sostanzialmente tutta quella classe dirigente che aveva governato dal 1948 al 1993. Venne meno la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, quindi veramente un passaggio epocale nella storia della nostra democrazia. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica. Le elezioni del 27 e 28 marzo segnano la vittoria del centrodestra e la formazione del primo governo Berlusconi. Dopo aver lasciato Palazzo Chigi, Ciampi considera finita la sua stagione politica. Ma alle elezioni anticipate del 1996 vince lo schieramento di centrosinistra e Ciampi accetta di diventare ministro del bilancio e del tesoro nel governo presieduto da Romano Prodi. La sua missione è realizzare un programma di risanamento economico che permetta all'Italia di rientrare nei parametri fissati a Maastricht e di aderire all'Unione Monetaria Europea. Ricordo benissimo quel pranzo a casa di Carlo, in cui Romano ed io cercammo di convincerlo a diventare ministro del tesoro. Lui resistette un po' perché, insomma, considerava di aver concluso il suo impegno. Però poi alla fine accettò, esattamente con l'argomento che Romano usò con lui, e che avrebbe dovuto aiutarci a portare l'Italia nell'euro e che lui poteva farlo. Devo dire che per me è stato un elemento di grandissimo conforto, anche umano, il fatto che questo che era stato presidente del Consiglio, più anziano di me, accettasse di divenire ministro del mio governo. Per me è stata una lezione di stile che mi è difficile da dimenticare. È una missione quasi impossibile all'inizio. L'Italia si presenta a mani nude a un tavolo nel quale deve fare i conti con la Germania dove Dominus è l'allora presidente della Bundesbank, Hans Tittmeier, un vero e proprio falco. L'Olanda, che in quel momento è la nostra bestia nera, che a ogni piè sospinto parla male dell'Italia. La chiave è sempre stata la Germania, però. Il rapporto con Kohl, che lì all'inizio, mi ricordo il primo incontro, c'è stata subito una certa simpatia, una buona chimica, però lui mi guarda e dice: al prossimo incontro ci sarai tu o ci sarà qualcun altro? Allora lì tu senti, ti senti il libro cuore addosso, no? Cioè proprio, dici, ma come? Il rapporto tra Kohl e Ciampi è stato una delle pagine migliori del rapporto tra Italia e Germania. C'era in quel rapporto la storia di due antifascisti, di due persone che avevano vissuto le tragedie della Seconda Guerra Mondiale e che più di altri volevano costruire l'Europa unita. Scelta dell'ingresso nell'euro fondamentalmente nasce da un incontro con fra lui e Kohl, il suo primo incontro con Kohl, in cui si erano detti: o lo facciamo noi adesso o non lo farà mai più nessuno. E quindi si guardano negli occhi, e chi guardava negli occhi Carlo Ciampi sapeva che diceva la verità. Caro amico, come stai? Ciampi si impegna a fondo per vincere la diffidenza dei partner europei. Ingaggia quella che si può definire la battaglia sul differenziale, cioè lo spread tra i titoli tedeschi e quelli italiani,